Allora, io intanto ringrazio i presenti, inizierei un po' a presentare l'autore, che è anche insomma nostro amico, collaboratore, lavora con noi anche in Eterotopia France, dove questo libro è apparso in prima battuta. Giorgio Passerone è professore emerito di letteratura italiana all'Università di Lille, ha attraversato la storia italiana in molti dei suoi versanti, con noi ha voluto realizzare questo testo che a mio avviso lancia delle piste sulle quali poi torneremo, ma esso è stato insomma conosciuto in Italia per essere stato presente accanto e con i lavori di Gilles Deleuze e di Félix Guattari. Di Gilles Deleuze soprattutto lo conosciamo come suo traduttore primo di Mille Piani, di Mille Plateaux, oggi rieditato da Orthotes, senza che l'autore ne fosse troppo informato, ma ormai questa è l'Italia. E detto questo, il perché di questo incontro, il perché di questo libro e a che cosa questo libro ci può aiutare, a mio avviso, a porre degli interrogativi, delle piste, perché lo vedremo, spero, assieme, è un libro che apre molti percorsi, apre molti punti di vista, molti sguardi. Perché? Perché è un libro che intreccia la politica con l'arte, con la letteratura, con gli autori, perché è un libro che ha delle intuizioni, delle curiosità che sono molto vive anche nel nostro presente. Ci sono evidentemente passaggi e autori molto più richiamati di altri, perché fanno parte, credo, della storia di Giorgio. Gliele chiederemo magari, no, in qualche modo un po' un riassunto, un richiamo, ma certo è che l'apertura già è un'apertura importante, perché compara l'esodo da Vincennes a Parigi 8, poi spiegherò che cos'è stato quell'esodo, alla giungla di Calais, ai migranti, a quello che è successo, questioni che Giorgio ha continuato a seguire in fase sua intellettuale e militante, cioè con la presenza insomma di una sensibilità che quegli eventi interrogava e che spiega un po', lì torno subito, il suo titolo, che può sembrare un titolo un po' bizzarro, no? Artigianato e combattenti, perché artigianato e non arte? E artigianato in quanto pratica orizzontale dal basso che si innerva con quelle zone di resistenza attuali in difficoltà, diciamocelo chiaro, che pure però ci sono e continuano ad esserci e continuano ad essere anche profondamente, come dire, confinate in margini. E allora l'apertura, Vincennes, poi ti chiederò magari, no Giorgio, di spiegarci. Vincennes è stata per la Francia, per Parigi, per tutta l'intelligenza francese, il pensiero critico francese e europeo, direi io, una emarginazione e allo stesso tempo un punto di forza straordinario, perché lì confinano il massimo degli intellettuali di quell'epoca e li confinano in una condizione di voluta emarginazione, e ne viene fuori un laboratorio straordinario. Un laboratorio straordinario che, guarda caso, dopo poco viene spostato a Parigi 8. Per chi non sapesse che cos'è Parigi 8, Parigi 8 oggi ha una straordinaria biblioteca, un bellissimo apparato, ma è dentro, voglio dire, a Saint-Denis, nel deserto totale urbano. Quindi c'è una scelta che continua a perseguire e Giorgio riesce a fare un passaggio rispetto alla giungla di Calais, luogo di migrazione che è stato uno di quei luoghi di sospensione della questione migrante in tutta Europa. Un luogo che è, come posso dire, una rappresentazione dei molti luoghi di sospensione delle migrazioni che abbiamo avuto in Europa. A Parigi, per esempio, dalla zona del XVIII, dove sotto i ponti i migranti attrezzavano le loro tende, poi approdavano in questo nulla, un nulla però sbarrato. E a partire da questa doppia linea di esodo indotto, Giorgio dispiega delle digressioni letterarie e filosofiche che hanno dei tracciati, però non sono casuali, che rimandano a delle singolarità che hanno espresso una loro eccità, un loro perché. E questi sono Pasolini, sono Brecht, sono Dante, c'è Marx ovviamente, ma soprattutto arriviamo poi a uno dei nuclei che Giorgio declina dentro questo testo, che è la percezione che alcuni linguaggi, che alcuni percorsi artistici siano riusciti più che altri a intrecciare militanza politica interrogazione. Fra questi c'è Stroop, ma lì c'è anche un legame personalissimo che lui persegue accanto a questa pratica che non è solo cinematografica, ma è di esplorazione, ma è di interrogazione, ma è di restituzione di contesti e influenze e contesti. Allora, il libro ha poi dei blocchi, poi chiederò a Giorgio di spiegarceli bene, e questi blocchi passano attraverso alcuni crinali importanti della nostra storia contemporanea, che sono ad esempio le primavere arabe, che sono ad esempio lo Stato per l'Italia, che ha un antecedente profondo negli anni 70 nell'autonomia e che declinano poi come delle scie, che sono delle scie che attraversano delle sensibilità che sono state collettive, forse ora sono più delle singolarità un po' disperse, lasciatemelo dire, e che, come dire, a mio avviso, questo è il lancio che ti lascio, non vanno giudicate dagli esiti. Ad esempio, io non giudicherei Calais, non giudicherei le primavere arabe, non giudicherei le eccità, le zone di sospensione che abbiamo in tutta Europa, a partire dagli esiti che ci lasciano. C'è un mentre, c'è un attraverso dove si è cercato di opporre resistenza, e questo ci dice qualche cosa della seconda parte del titolo. Combattenti, comunque combattenti, perché altrimenti gli spazi non possono esistere senza chi riesce non solo ad abitarli, ma renderli spazi di parola, spazi di espressione, spazi di vita. Giorgio. Grazie Tiziana. Innanzitutto tengo a dire che in effetti questo libro, che non vuole essere un libro ma una serie di carte, una cartografia, e poi spiegherò perché, è possibile sia in italiano, nella sua versione italiana, che è un po' cambiata rispetto a quella francese, perché è il frutto di un incontro. L'incontro con Tiziana, che è un incontro che data dei tempi, dall'inizio degli anni Ottanta, ma che poi è rimasto come in sursis, si dice in Francia, e poi nel momento in cui ho scritto questa versione francese, Artisanat et Combat, mi è venuto naturale chiedere a Tiziana e a Eterotopia se fossero stati interessati, e Tiziana ha subito risposto di sì con una grande generosità, per cui questo non è per fare delle sviolinate, ma è la verità e ci tengo a dirla. Allora, vorrei dire che per la prima volta in quello che scrivo, dire io mi dà molto fastidio, cioè l'io è una brutta parola, e come la parola autore è anche una brutta parola, non credo che siamo degli autori, l'autore va bene per gli artisti, ed è per gli artisti che ormai sono quelli del showbiz, e credo invece che è per questo che insisto sulla parola artigianato, e non sulla parola arte, perché l'artigianato è qualcosa che si fa con le mani, e tutte le attività dette artistiche si fanno pensando con le mani, che sia cinema, che sia scrittura, che sia pittura, che sia musica, eccetera. Cioè, per cui molto materia, è tutto molto materiale. E poi è un libro che è stato fatto giustamente perché per un'esigenza non far dimenticare certe cose che non rinviano all'autore, anche se è un libro che parla di incontri fatti da uno che si chiama come si chiama questo qua, si chiama Passerone, ma non è importante, perché tengo a dire, allora, per prima cosa, che come dice uno dei miei intercessori, che è Gilles Deleuze, dire qualcosa in proprio nome è curioso, perché non è assolutamente nel momento in cui uno si prende per un io, una persona, un soggetto, che si parla in nome proprio. Al contrario, un individuo acquisisce un vero nome proprio al termine del più severo esercizio di spersonalizzazione, quando si apre agli affetti, alle esperienze, alle sperimentazioni che lo attraversano. Cioè quando si apre agli incontri. Credo che la parte migliore di noi stessi sia quella che ci fa divenire altro, grazie agli incontri che facciamo, a condizione di essere capaci di farli quegli incontri, ciò che implica in effetti un lavoro su di sé, e c'è una doppia lotta, un doppio, in francese on dit combat, che è la lotta tra sé e sé, e la lotta contro le potenze terribili dell'avvenire, che ce l'abbiamo tutti sotto gli occhi. Allora lì si fanno degli incontri, e in questi incontri, che sono tutto il contrario di un riconoscimento, nel senso che vivere sotto la forma dell'incontro è differente da vivere sotto la forma del riconoscimento. Quando voi vi riconoscete in qualcuno o riconoscete qualcuno, voi siete nella rappresentazione del reale, cioè non si avanza. Quando si incontra qualcosa si diventa altro, ci si apre al nuovo, all'inedito, a nuove possibilità di vita, ecco. E allora è un libro che racconta una serie di incontri. I primi incontri sono l'unica parte, nella parte che, siccome sono genovese di origine, l'origine che è un altro problema, che cos'è l'origine? Nasciamo dove per caso si nasce. A me è capitato di nascere in una Genova cattolica, perché italiana, a Genova c'era anche altro che il cattolicesimo, e ho incominciato a tradire questa mia origine, diciamo, facendo un primo incontro, e una serie di incontri che ti cambiano. E il primo incontro, paradossalmente, che mi ha fatto diventare laico, ateo quasi, o poi bisognerebbe vedere cosa vuol dire atrio, ma soprattutto compagno, è stato con un prete di strada, Don Gallo. Cioè, è il primo incontro che lo racconto, perché è l'incontro la bascule, il momento in cui si passa dall'adolescenza e dal Gallo, poi è finita nell'autonomia a Genova, che racconto in una di queste carte per inviare un messaggio in una bottiglia, non tanto per parlare di noi stessi degli anni 70, ma per le nuove generazioni. E qua è ancora una volta con grande gioia, e le nuove generazioni non le vedo, siamo sempre noi, siamo tra di noi, e vabbè, e così è. Ma non è finita, ci sarà ben qualche nuova generazione che arriva, e bisogna crederci. E allora c'è questa carta, che è una carta su Genova, perché la carta non è una carta rappresentativa, sono delle carte che sono carte piuttosto intensive, direi, cioè al di là della rappresentazione, al di là anche della storia, nel senso che io penso che ci sia una e questo sono profondamente legato al pensiero di Guattari e Deleuze, soprattutto ci sia una differenza fondamentale tra divenire e storia, e che la storia è sempre, non raccontiamoci storia, la storia è sempre la storia dei vincitori, e divenire una cosa che invece è di un altro ordine, che però ci fa sentire anche il divenire, bisogna viverlo anche proprio a fior di terra, cioè una geografia che è anche una geologia, però bisogna attraversarla questa geografia. Ed è in effetti allora un libro un po' itinerante, cioè in questo libro ci sono diversi percorsi, uno passa in effetti per Vincennes, Vincennes è stata per il tipo che racconta questa storia, che ripeto non è un soggetto, è stata la maniera la linea di fuga che ha permesso di uscire dall'impasse degli anni 70. E dalla sconfitta del movimento degli anni 70, perché nel pensiero di Deleuze Guattari il personaggio che si chiama GP ha trovato una serie di indicazioni estremamente potenti che potrei riassumere in tre punti. Uno, che una società non si definisce per le sue contraddizioni, perché le contraddizioni implicano sempre una certa complicità tra i contraddittori, cosa che negli anni 70 l'abbiamo profondamente pagata, volendo un confronto speculare con il potere, che finisce nella famosa formula di certi compagni, l'attacco al cuore dello Stato. Ma non c'è stato solo quello negli anni 70, capite? Gli anni 70, tengo a ribadirlo con forza, sono stati, come dice Eri De Luca, anni di rame, non sono stati anni di piombo. Gli anni di piombo ce li raccontano gli uomini del potere, sono stati anni di profonda trasformazione e con delle grandissime potenzialità e anche con delle impasse, in effetti. E tra queste impasse insisterei molto su una componente che poi ritrovo nelle grandi analisi. Una nuova concezione del rapporto tra maggioranza e minoranza, nel senso che la minoranza diventa, ma non come Stato, ma come divenire minoritario, è un divenire sempre che avrà anche le proprie organizzazioni, le proprie composizioni a livello delle lotte, e però che è irriducibile al potere costituito sempre, che implica sempre una messa in discussione del potere costituito il nome di quello che potrebbe essere una potenza costituente. Lì riprendo un po' certi temi anche di Toni Negri, modulandoli un po'. Toni Negri, un altro grande un altro intercessore, nel senso, noi abbiamo bisogno di intercessori. Intercessori sono gli incontri, intercessori che ci trasformano, ma che di cui gli intercessori stessi hanno bisogno di noi. È sempre un rapporto di reciprocità. Secondo punto è quello, e poi il terzo punto è quello che ci vuole una nuova macchina di lotta, se non da guerra, che lotti contro la guerra. E questa macchina è fatta da tutte queste potenze minoritarie che dovranno cercare di costituire un campo di composizione comune, donde l'idea fondamentale del comune. Però questa idea del comune si deve basare anche su una nuova concezione della singolarità. E nella prima carta, dove racconto una lezione di Deleuze a Vincennes, una lezione straordinaria, dove Deleuze parte da un testo di Kafka, dove Kafka dice: solo nel io, quando dico io sono infelice, non dico niente. È solo nel momento in cui questo io sono infelice o sono felice, Kafka, che passo alla terza persona, all'egli è infelice, egli o ella, chiaramente qua non si tratta di fare del grazie perché okay. È solamente in quel momento lì che questa infelicità o felicità può diventare veramente qualcosa di comune. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una critica formidabile contro tutte concezioni, non solo dell'identità e della persona, ma anche del soggetto proprio. E lì c'è anche una piccola polemica con Foucault, ma Foucault parlava di processi di soggettivazione che ci fanno diventare altro. Però in Deleuze è fortissima questa idea che, ma voi vi pensate di essere individuati come dei soggetti o non piuttosto come, e lo diceva con molta semplicità, come una corrente d'aria, come un evento. Essere individuati sulla forma del piove, il pleu, essere individuati in quella maniera lì. Ma guardate che cambia completamente la percezione del mondo, che non vuol dire essere individuati come piove, non avere una interiorità, ma è un'interiorità tutta del di fuori e non del di dentro. È una concezione completamente rivoluzionaria della nozione di individuazione. E io credo che veramente questa individuazione come eventi, siamo dei piccoli eventi, siamo dei piccoli eventi, sia quanto negli anni 70 i soggetti anche di gruppo sono stati qualcosa che hanno portato all'impasse. Con tutte le. Ed è lì che c'è una serie di termini che credo siano legati l'uno all'altro, che sono incontro, evento, e già sono due cose. Cioè vivere sulla forma dell'incontro, vivere sulla forma, siamo dei piccoli eventi e non dei soggetti, i soggetti con le loro malattie. E le due grandi malattie sono le malattie che conosciamo tutti, le due malattie del soggetto quali sono? Sono quelle di cui parla Nietzsche, sono da una parte la cattiva coscienza, è colpa mia, e dall'altra il risentimento, è colpa tua. E pensate quando cattiva coscienza e risentimento siano qualcosa che ce l'abbiamo sempre un po' in testa. Io non dico che il soggetto sia solo quello, ma c'è anche quello nel soggetto. Ed è per questo che io credo che la nozione di soggetto sia una nozione profondamente inutile e dannosa oggi. E allora poi in questa serie di incontri parlavamo di Calais. Cos'è Calais? E lì c'è il problema fondamentale. Il problema fondamentale è che cos'è un atto di creazione. Come dice Deleuze? Un atto di creazione che è un atto di resistenza sempre. E Deleuze diceva una cosa molto profonda e semplice, perché perché le cose più profonde sono le più, che poi la profondità non è una cosa molto intensa più che profonda, perché la profondità ancora rinvia all'interiorità, tutte quelle cose di, fa un po' schifo la profondità, la superficie, ma attenzione, la superficie non essere frufru, la superficie è qualcosa di complicato, è semplice, complicato. E dice, ma l'atto di creazione ha due facce. Da una parte concerne in effetti l'arte, cioè la creazione che io la chiamo artigianale, e dall'altra però concerne anche la lotta dei più oppressi degli uomini. E qual è il rapporto tra queste due facce? C'è il rapporto più complicato, il rapporto più misterioso, ma anche gli artisti più elitisti, più difficili, e potremmo andare da Dante, che conosco un pochettino, ma Dante di cui parlo, di cui si parla, non è il Dante ortodosso, il Dante dogmatico, il Dante cattolico, no, è Dante straniero nella propria lingua, il Dante straniero, il Dante esule, il Dante perseguitato, e che questa e che fa di questa sua erranza la potenza di una nuova lingua, che è sempre una lingua in atto per la costruzione di un comune. Poi lui lo metteva sotto i segni dell'aquila e della croce, ma queste sono figure. C'è un Dante che ci parla a tutti, un Dante dove c'è chi si perde e chi si salva, altro che nada, no, bisogna salvarsi, ma salvarsi mica per il paradiso, perché ci si salva sulla terra, sulla umile terra dell'Italia, l'umilis Italia, da una parte Mallarmé, Kafka che dice io parlo per un popolo che non c'è e che non c'è ancora, e così Paul Klee, che dice la mia arte, ma la mia arte è per un popolo che non c'è ancora. Per cui questa tensione, che altrimenti è arte per l'arte, non vale un cavolo, e dall'altra parte i più oppressi, la lotta dei più oppressi degli uomini. Quando questi più oppressi degli uomini a Gaza, parlategli un pochettino di Dante, se ne battono le palle, ed è evidente, no? E nello stesso tempo c'è questa tensione per costruire una nuova, delle nuove maniere di vita, e questa tensione ha a fare anche con l'artigianato artistico, diciamo, ma quello intenso, quello che produce nuove possibilità di vita, nuovi modi di pensare il senso del comune. Ecco, questa è da lì. Allora, perché Calais? Perché giustamente c'è una scrittrice, professoressa di Vincennes, che quando il governo Giscard in pochi giorni smantella completamente l'università sperimentale, questo laboratorio straordinario che ho frequentato per un anno, l'ultimo anno, che è stato Vincennes, dal potere giscardiano distrutto, è passato poi a Saint-Denis, che rimane qualcosa di Vincennes, altra cosa, e dice, ma quando il mese di agosto del 1980 è stato completamente smembrato questa, e non c'è più un filo di ricordo nelle pietre, vedete sempre la questione della terra, se andate a Vincennes, nel bois de Vincennes, l'università non c'è mai stata, cioè non c'è più alcun segnale di quel posto straordinario. E dice, ci hanno smantellato come stanno smantellando adesso i campi dei rifugiati a Calais. E noi altri che eravamo, insegnavamo, perché eravamo un gruppo a Lille, abbiamo detto, ma cavolo, andiamo a Calais. E siamo andati a Calais, ma non come turisti, e per due anni abbiamo seguito questa giungla di Calais, che è stata non quello che vi hanno raccontato sui giornali, ma è stata anche quello, perché c'erano un sacco di situazioni limiti, lotte tra comunità, prostituzione, eccetera, ma c'era molto di più. C'era una città nuova che stava creandosi, dove c'erano gli associativi, certo garantiti, che venivano da tutta dall'Inghilterra, dall'Australia, dal Belgio, dall'Italia, e i rifugiati che facevano insieme un incontro dove non c'era solidarietà, questa parola che fa schifo, ma c'era reciprocità, c'era un divenire comune, ed è stato questo che ha costruito scuole, teatri, case, cioè tutto, chiese interreligiose, cioè c'era anche quella componente, perché in tutto questo mondo di rifugiati c'è questa componente che non bisogna prendere in conto, questa componente, diciamo, della religione, c'era veramente un divenire comune che è stato smantellato questa volta non da Giscard ma dai socialisti. E noi altri siamo riusciti a portare 200 rifugiati all'università, anche se ci sono stati un sacco di problemi per quello. E poi ecco che adesso questi nostri compagni con cui abbiamo costruito, dispersi di nuovo nella Francia, isolati, ed ecco la situazione qual era. Questo è un altro incontro. E poi ci sono appunto gli incontri più... quello con Jean-Marie Straub, che è stato un incontro fondamentale, perché per dirla in due parole, un rigore assoluto, mai un compromesso con i media, con l'industria culturale, cinematografica e tutta. In un film, La morte di Empedocle, fa dire a, tratto da Hölderlin, vi leggo questo passaggio perché per capire cos'è Straub. Scusate. Voilà. E non lo trovo. Voilà. Allora, a un certo punto sapete un po' la storia di Empedocle, che è questo grande filosofo di Agrigento, che a un certo punto si prende anche per una sorta di divinità il suo peccato, e soprattutto non accetta di diventare il dittatore di Agrigento, come gli chiedono i cittadini, perché dice: no, io non voglio essere il vostro padrone, il vostro capo. E allora si rifugia sull'Etna, dove poi si butterà nel vulcano, ma quelle lì sono cose. Ed ecco cosa dice sull'Etna, e allora lì avete tutto il cinema di Straub condensato, perché avete un'immagine visiva dell'Etna, con la voce off, che però è una voce in, dell'attore che recita Empedocle, e con questa vibrazione del minimo frammento del quadro, perché bisogna saper vedere, cioè il cinema di Straub è un cinema che ci insegna a vedere se abbiamo la pazienza, ed è la vera fantascienza, cioè, perché è quella lì la fantascienza, senza effetti speciali. E allora dice questo: avete da lunghissimo tempo sete di inabituale, e come un corpo, lo dice agli agrigentini, e come un corpo malato lo spirito d'Agrigento si strugge fuori dalla vecchia rotaia. Così rischiatelo. Ciò che avete ereditato, ciò che avete acquisito, ciò che la bocca dei padri vi ha raccontato, insegnato, leggi e usanze, nomi dei vecchi dei, dimenticatelo audacemente, elevate come nuovi nati gli occhi su verso la divina natura. Lui la chiama divina natura. Quando allora lo spirito s'accenderà la luce del cielo, un soave soffio di vita vi abbevererà il seno come per la prima volta, e piene di frutti d'oro le foreste stormiranno, e le sorgenti dalla roccia, quando la vita del mondo vi agguanterà il suo spirito di pace, e come una ninna nanna sacra vi tranquillizzerà l'anima, allora dalla delizia di una bella alba il verde della terra di nuovo brillerà per voi, e montagne, e mari, e nubi, ed astri, eccetera, eccetera, eccetera. E Straub dice: questo messaggio, lo dico e lo affermo, è un messaggio comunista. Non è il comunismo come è stato saccheggiato. Empedocle dice: non bisognerà rinunciare a niente col pretesto di avere qualcosa, col pretesto del progresso. E questa è un'utopia comunista. La sola cosa che potrebbe ancora salvare il pianeta e i figli della Terra, tanto più che dopo Hölderlin la minaccia si è precisata e si precipita. Questo qua è il nucleo, e attenzione che non vuol dire ritornare, cioè la critica del progresso non è, non è quello che dice Benjamin, tirare il freno del treno del progresso non vuol dire che non ci sarebbe una bella definizione di Pasolini quando fa la distinzione tra progresso e sviluppo, dice: io sono per il progresso contro lo sviluppo. Il progresso di cui parla qua Straub è lo sviluppo capitalistico, e non il progresso su cui anche l'ultimo Marx aveva, che c'è un certo Marx che lo possiamo dire prometeico, ma poi c'è un altro Marx che alla fine della sua vita riprende in conto che cos'è la comunità rurale russa, come sapete sicuramente molti di voi, e si interroga su cosa sarebbe il passaggio nella società senza passare per le forche caudine del capitalismo, prendendo della tecnica che è venuta fuori dal capitalismo, pagata a quanto caro dai proletari di tutto il mondo, solamente l'utile per un nuovo progresso, una nuova maniera di vivere insieme. E questo ci porta poi non so, sto parlando un po' lì, poi chiacchieriamo insieme. C'è un ultimo capitolo allora, che è quello un po' più, forse è dato più dire, ma cosa tira fuori adesso? E ho tirato fuori una storia che è una storia proprio perché da italiano, cioè se fossi nato in Pakistan come i miei amici della giungla di Calais, non avrei mai potuto dire questo. E cos'è questa storia da italiano? È la storia di un popolo che per caso si è trovato con il Vaticano in casa, cioè si è trovato a nascere cattolico, più o meno, no? Un cattolicesimo. E allora, quando si era giovane, il primo barlume di questa voglia di uscire da tutto questo carcame è venuta da uno che si chiamava Francesco d'Assisi, che è piuttosto simpatico a tutti noi, anche se poi bisogna vedere come, no? Bisogna vedere come. E allora lì ho detto: ma forse è venuto il momento però di fare questo viaggio in Italia, un po' la maniera di Rossellini, che ha fatto il suo viaggio in Italia, facciamo questo viaggio in Italia una volta per tutte. E allora abbiamo fatto un viaggio in Italia, che dovrebbe anche venire fuori un film, adesso speriamo, stiamo andando avanti. E questo viaggio in Italia l'abbiamo fatto con una serie di tappe. E la prima tappa, andiamo un po' a vedere Assisi. Andiamo a vedere Assisi. Poi, dopo Assisi, però, andiamo a vedere poi, perché sapevamo già che Assisi avremmo incontrato la Lourdes degli anni, la nostra Lourdes italiana. Lo sapevamo perché avevamo studiato. Abbiamo studiato un po' sul Medioevo, insomma, un po' bisogna studiare, altrimenti, ragazzi, qua, se non si studia è un casino, bisogna studiare, ragazzi, qua non ci sono ragazzi, i ragazzi devono studiare. Anzi, dico questo, sì, qualcuno, qualche ragazzo. No, ma volevo dire questo, ecco perché, scusate, faccio ancora una parentesi. In quanto professore, cioè, cosa deve fare un professore con i ragazzi oggi? E io credo che la prima cosa che deve fare è insegnare a loro a riconciliarsi con la loro solitudine. Attenzione, ma mi dite, parli di evento, poi mi parli di solitudine, la solitudine è l'io. No, è il contrario. Cioè, riconciliarsi con la propria solitudine per evitare di dire di comunicare, perché comunicare fa male, ragazzi. Comunicare è una tragedia. La comunicazione bisogna smettere, ce n'è troppo. Abbiamo bisogno di resistenza al presente, non di comunicare. E riconciliarsi con la propria solitudine, cosa vuol dire allora? Vuol dire star zitto, studiare, e poi finalmente studiando avrai qualche cosa da dire di nuovo. Allora lì sì che puoi parlare. In quel senso lì sì, che allora ci sarà una nuova comunicazione, la chiameremo in un'altra, chiamiamola affabulazione, ci sarà una bella affabulazione creatrice di nuove possibilità di vita, di una vita un po' meno tragicamente schifosa come quella di oggi. Scusate, adesso mi incazzo perché Bellini non se ne può, adesso ve la dico anche in genovese, Bellini qua non se ne può più, va bene. Però adesso mi sono perso con questa storia. Ah sì, allora la storia di Francesco d'Assisi. Allora, e poi però io c'avevo l'idea dietro, perché Francesco d'Assisi benissimo, è stato bravo. E però abbiamo detto andiamo un pochettino. Allora, siamo andati a Assisi, prima tappa, ve la racconto in due parole. Ed è lì che è una cosa straordinaria. Voi andate nella Basilica Superiore e avete le storie di San Francesco, di quel genio di Giotto. Solamente che Giotto era veramente un mascalzone, era un venduto, ma un genio, era un grande venduto. Nel senso che in tutta questa fresca che dicono è l'inizio dell'arte moderna, in effetti sono delle cose straordinarie dal punto di vista, ma non c'è niente sul lebbroso, non c'è niente sulla povertà, non c'è un cazzo, scusate la parola, non c'è niente, c'è solamente questo, il santo che bisogna venerare e altro che imitare. Allora usciti fuori, diciamo. Poi andiamo, allora siamo andati alla Verna, la Verna dove si dice che ha ricevuto le stimate, figuratevi le stimate. Questo qua poverino non ne poteva più della sua comunità che stava andando a catafascio, è in crisi profonda, se ne va lì per cercare di meditare, vuole lasciare tutto, e queste sono, ve la racconto un po' in maniera un po' caricaturale, ma è così. E un giorno ha una visione, ma se andate a Sasso Spicco, scendete, vedete sempre l'umile Italia, questa qua, e Dante è straordinario su questi passaggi. Andate in questa roccia che sprofonda in una vallata, ed è lì che Francesco, dicono, ha ricevuto un tubo, ha avuto una visione, e questa visione che lo porta a dire continuiamo con questi fratelli stronzi, tutto, che ormai sono completamente venduti al Vaticano, eccetera. Il problema di Franceschiello è che lui, adesso viene dico, no, perché questo qua interessa, cioè, a me interessa con i compagni parlare di questa cosa qua, perché poi vedete dove andiamo a finire. Bisogna discutere. Bisogna discutere, certo. Però capite che quando quello lì diceva quello che adesso vi leggo. Voilà. Dice, prendetelo col linguaggio suo. Fare misericordia con i lebbrosi, divenire povero con i poveri, andare errando per il mondo straniero e pellegrino, non portare niente sulla strada, né borsa, né bisaccia, né pane, né denaro, né bastone, lavorare con le proprie mani, rifiutare di ricevere chiesa o abitazione, disfarsi di sé senza cedere mai alla tristezza, perseverare sempre lieto, accedere alla ricchezza della singolarità, un fratello, eccetera. Non resistere al malvagio, non pretendere di renderlo migliore, fuggire altrove là dove si è cacciati, perdonare fuori da ogni dimensione giuridica e di retribuzione, percorrere amorosamente, passando la terra dell'italica erba come una patria sconosciuta senza possesso, testimoniare davanti con gli animali, gli uccelli, anche i vermi, come davanti al Papa regale, danzando, saltellando sulle gambe come una lodola, vivere la stessa morte come una sorella e non volere per fratello corpo altra bara e intornare la salmodia di tutte le creature. Boh, io ragazzi, queste cose qua sono importanti, soltanto che c'è un problema. C'è un problema. E il problema è che a un certo punto, amore, amore, amore, e la giustizia? E la giustizia? E il problema si viene fuori 30 anni dopo, quando ormai l'ordine francescano, di cui sapete su Francesco, vi racconto questo aneddoto, no, ve lo racconto dopo, che concerne Toni Negri, perché con Toni, no, anzi lo racconto adesso, perché quando Toni era in prigione a Rebibbia, che quando era ritornato in Italia, e quando ha avuto il primo permesso nel 2001, vedete che tutto si tiene, G8 Genova, quando è venuto dice vado in un piccolo paese dell'entroterra ligure dove c'è un mio amico perché dobbiamo fare uno studio sul francescanesimo. Quel mio amico ero io, ed era subito dopo il G8. Arriva e cosa succede? Succede che c'è il ministro Scajola, che era il ministro degli interni responsabile dei confini e Berlusconi di quello che era successo a Genova, che è a Imperia e che ti manda, lui doveva firmare tutte le mattine al centro della polizia di questo paesino, dove avevamo organizzato una serata dove veniva da Genova anche Don Gallo, figuratevi un po', e in vallata c'era anche Renato Curcio, per cui questo Scajola ha perso un po' la testa, ti manda, beh, ha mandato anche l'elicottero, ha mandato l'elicottero, quattro gazzelle della polizia, tutto, riunione di terroristi, tutto, non è successo niente sui giornali, scandalo per Rinaldo, questo figlio paese. 30 anni dopo la morte di Francesco, i bravi francescani entrano a fare la inquisizione, non so più parlare di te, si mettono a fare l'inquisizione anche loro, e c'è uno che è proprio uguale, identico, idiota come Francesco, che si chiama Gherardino Segalelli, e questo qua va a battere a Parma, vuole entrare a fare i francescani, dico vattene via, se vai coi porcari, un po' quello che il Papa Innocenzo aveva detto a Francesco, boh, morale della storia. Per qualche anno va ancora bene, lui fonda un ordine, un gruppo di eterosessuali, dove ci sono anche delle donne, tutto un casino, bellissimo, che si chiamano gli Apostoli. E questi qua sono, insomma, nel 1300 è messo a rogo questo Gherardino. Chi prende il posto di Gherardino? Un intellettuale mica male che si chiama Dolcino. E Dolcino vi dovrebbe dire qualcosa. Dolcino, anche lui perseguitato, lui continua, dice a un certo punto però gli ammazzano, gli mettono a rogo dei, lo dico proprio velocemente, va in Veneto, trova una donna splendida che si chiama Margherita la Bella, che è la sua amante, perché è veramente, è uno dei primi grandi movimenti femministi in Italia, e questo è interessantissima la cosa. Parità, tutto in comune, comunisti, dei veri comunisti. E sono perseguitati, arrivano in Valsesia, e in Valsesia c'è una lotta dei montanari contro i comuni e i conti di prima, che vogliono riappropriarsi, Novara e Vercelli vogliono riappropriarsi l'Alta Valle. Siamo veramente al momento della nascita del sistema mercantile e la fine dell'organizzazione feudale. Molto interessante questo dal punto di vista economico-sociale. Loro sono contro i nuovi, la nuova borghesia nascente dei comuni e contro i vecchi poteri feudali. E con i montanari del posto decidono, fanno resistenza, prendono le armi, fanno resistenza. E ci sono una serie sul Monte Rubello, ci sono una serie di scontri che finiscono poi con massacro di tutti i dolciniani, di Margherita. In maniera... Siamo andati sul Monte Rubello, dove ci sono le pietre che parlano ancora. Queste pietre sono sacre. E all'inizio del Novecento, dopo secoli di... nel posto del Monte Rubello, dove c'era stato l'ultimo massacro, la Chiesa Cattolica ha fatto costruire, un po' come a Montmartre, il Sacro Cœur, sulle rovine della Comune di Parigi, un santuario, San Bernardo, che San Bernardo è il fustigatore degli eretici. Ma sul Monte Massaro, che è proprio lì vicino al Monte Rubello, all'inizio del Novecento, gli operai che si erano rivoltati qua, Bava Beccaris, si ritrovano sul Monte Rubello e il Monte Rubello diventa un segno delle lotte operaie di tutta la zona del Piemonte, della Lombardia. Nel 1927 innalzano un obelisco, no, nel 1909, scusate, innalzano un obelisco in onore di Fra Dolcino, che nel 1927 sarà bombardato dai fascisti. Nel 1974 Dario Fo e altri ritorneranno e ci sarà questo nuovo piccolo monumento dove tutti gli anni c'è una manifestazione in ricordo di questo massacro. E chi sono oggi i rappresentanti che si rivendicano di Fra Dolcino? Sono i NOTAV. I NOTAV che tutte le volte, l'8 settembre, andiamo sempre su questo cippo. E allora cito uno di questi personaggi straordinari, un altro intercessore che non ho conosciuto personalmente, ma che si chiama Tavo Busatti, scrive una lettera, ve la leggo perché è bellissima, in più così non mi cito che fa schifo, e cito questa cosa qua che è bella. Scrive ai NOTAV nel 2009. Cari valigiani ribelli, da secoli ci aggiriamo, lui è Fra Dolcino, da secoli ci aggiriamo stanchi e obliqui sopra i fatti del mondo, assistendo ad uno spettacolo avvilente e angoscioso, montagne sventrate dall'arroganza del denaro, vallate affogate nel cemento, fiumi color della fanga e soprattutto genti rassegnate e chine. Se il dolore è più forte nel vedere devastate zone a noi care, terre di comunanza, rifugio e resistenza come la Val di Ledro, la Val Sabbia, il Monte Rubello, nel mondo degli interessi meschini siamo sempre stati stranieri. Mentre ci siamo sentiti a casa nostra, ovunque la natura prospera, rigogliosa e selvaggia, e l'uomo vive in armonia con la terra che gli è madre e fratello del suo simile. L'astuzia della storia dei potenti ha sempre fatto sparire queste nostre lettere. Sul finire del secolo, apertosi col rogo del nostro fratello Segalelli, 1300, scrivemmo ai Lollardi inglesi e nella Pasqua del 1420 agli Adamiti che predicavano in Boemia le dottrine dei fratelli del libero spirito e della libera intelligenza. Scrivemmo a Thomas Munzer e a Michel Gasmer durante quelle rivolte in cui nella prima metà del Cinquecento il povero uomo comune fece rivivere lo spirito millenario della fratellanza contro i soprusi della toga, della tunica, dell'uniforme. Abbiamo scritto finché ci sono state congiure di uomini liberi contro l'imperio del denaro, finché c'è stato qualcuno a cui scrivere. Abbiamo scritto al capitano Jonathan Swig e al generale Ned Ludd, affinando i nostri messaggi alla nebbia delle campagne dei borghi inglesi sconvolti dalle prime aggressioni industriali, poi agli operai russi nel 1905, ai contadini spagnoli nel 1936 e ancora durante la resistenza in cui molti avrebbero voluto far guerra ai palazzi. Sono passati decenni da allora, quel formicaio di uomini soli che ancora chiamate società ci ha tolto ogni gusto per la parola. La passione c'è tuttavia tornando, vedendo quegli stessi sentieri partigiani, ripercorsi da donne, uomini, bambini, ostili a un treno, carico di sventure e difeso da gendarmi in uniforme. Con quale gioia allora vi abbiamo sentiti parlare e ridere della libera Repubblica di Venaus. Con quale gioia abbiamo udito dei ragazzi valsusini urlare ai gendarmi Venaus, abbiamo abolito il denaro. Sapete il nostro motto per cui ancora oggi ci ricordano, era tutte le cose sono di tutti. Il 31 ottobre a Seghino, l'8 dicembre a Venaus eravamo con voi valigiani fieri testardi, ancora una volta sulle montagne. Noi non avevamo mai pensato di prendere le armi contro la persecuzione della chiesa dei feudatari, furono i montanari, conoscitori delle rocce e abili con l'arco a insegnarci a resistere. Noi avevamo solo alcune ragioni di una rivolta che loro covavano e praticavano da secoli. E come li ha ripagati la storia, questi montanari generosi e caparbi, con il massacro prima e la menzogna poi dei suoi scribi. Tutto questo non vi ricorda qualcosa, cari valsusini? Non hanno forse cercato gli odierni Clemente V di far credere che dietro la vostra rivolta c'era solo un pugno di anarchici sovversivi terroristi? La fermezza con cui avete respinto queste odiose e patetiche macchinazioni intese a dividervi, la caotica armonia con cui le vostre esigenze di lotta si sono incrociate con le idee e i sogni di tanti venuti da ogni parte d'Italia, ecco per noi una gioiosa vendetta della storia degli oppressi contro le menzogne degli oppressori. Ma se pas mal, se un po' retorico, ma se buono. Grazie. Grazie Giorgio. Allora, io proporrei una chiacchierata qui dicendo che queste sollecitazioni di Giorgio che mi toccano profondamente, perché noi stiamo attraversando un tempo non bello, insomma, lo sappiamo, ma nel tempo del negativo impariamo a fare un conto che forse non avevamo mai fatto prima, il conto col negativo, che invece tanta filosofia tedesca, quella conservatrice, aveva in qualche modo sottolineato, cioè la presenza che il negativo abita l'uomo, ci appartiene, ci attraversa, e che questo negativo può essere quella chiave distruttiva che fa gridare ai marinai di Nietzsche, perché a questo pensavo mentre leggevi, non solo Dio è morto, ma il grande Pan è morto, cioè la potenza vitale, ciò che ci attraversa e ci fa tutt'uno nel mondo in cui siamo. I movimenti menzionati da Giorgio, le pratiche, i soggetti, sono soggetti non di sottrazione, ma di netta, nettissima, radicale opposizione. E in questo c'è vita. Adesso non vorrei passare come vitalista, anche l'accusa di Deleuze è sempre stata di essere un vitalista. Se questo è vitalismo, va bene, insomma, lo accolgo. Ma dobbiamo pensare che in questo attraversamento minoritario che stiamo percorrendo, molte pratiche in realtà si declinano. sono pratiche che non trovano voce, non trovano eco, lo possiamo sentire dalle notizie che ci arrivano dalle piazze, dai luoghi, dove molti ragazzi che magari non hanno questa memoria, no, che stiamo declinando qui, ma riconoscono in maniera perfetta quello che è l'accadere, perfetta, lo riconoscono, lo denunciano e vi si oppongono. Allora, in quest'epoca di nuove eresie e di nuovi inquisitori, è necessario, a mio avviso, pensare che sì, forse attraversiamo, come dire, uno sparpagliamento, ma non è detto che questo non sia foriero di nuove aggregazioni. Io lancerei questo come interrogazione, perché, ripeto, ed è il mio punto di tutti questi ultimi, diciamo, decenni, non si giudicano le lotte solo dagli esiti, non si giudicano le primavere arabe, non si giudica Calais, non si giudica da dove sono arrivate e da quale conclusione abbiano avuto. C'è un mentre, c'è un transito che è un suo movimento sotterraneo che perdura. Io di questo sono persuasa, profondamente persuasa, e sono persuasa paradossalmente che oggi sia di nuovo molto più intenso che prima, che qualche anno fa, non mi sto riferendo chiaramente ad altri anni. Però io direi, chiacchieriamo un po' assieme, perché veramente gli spunti che ci ha dato Giorgio sono tanti e sono sollecitazioni che vanno in transito, no? Fra un passato, un presente, un oggi. Senza timidezza. Io non so se è necessario passare per quello che tu dicevi, il negativo, sai che sono... Sono un po' Deutsch. Sì, sì, ho visto anche con l'Herbert Marcuse, che è molto bello quel testo, però c'è questa idea della linea di fuga, che è stata molto criticata dai marxisti ortodossi. Secondo me è invece qualcosa di intensamente interessante, che non vuol dire che non ci sia, che lo scontro frontale, e non è solamente una questione di strategie, lo scontro frontale è sempre letale. Ci sono dobbiamo trovare delle maniere veramente di andare altrove, di andare altrove stando dentro, lotta dentro e contro, però in un'altra maniera. Allora c'è questa formula di Straub, che secondo me è anche questa molto... dice: sono marxista, certo, sono, per cui sono marxista, ma c'è anche una mistica possibile, ma attenzione, una mistica immanente. Quando qua parlavamo di natura, questa è la linea d'orizzonte, la natura, che poi è il problema di un'ecologia potente, di un'ecologia politica, non l'ecologia verde bianca, cioè un verde che un verde rosso, cioè, avere questo sentimento della linea d'orizzonte, ma è profondamente questo essere rivoluzionari. Pensare che veramente cioè la prima, quello che conta è la linea d'orizzonte, si parte dalla linea d'orizzonte, dai problemi della linea d'orizzonte, dai problemi dell'Africa, dai problemi di Gaza, e si arriva poi poco a poco alla nostra piccola alla nostra piccola identità di città, di via e anche di persona. Ma se non si risolvono quei problemi, lì essere, Deleuze dice, è questo essere essere rivoluzionari, mentre invece essere reazionario vuol dire io parto di, so che ci sono dei problemi, ma io parto prima da casa mia, mia famiglia, e poi sarà Dio, patria, famiglia, e poi ci sarà il mio quartiere, poi so che ci sono i problemi in città, certo, cioè, ma io parto di... e poi ci sono i problemi, e poi... cioè, come sa. No, ma io... Capisci cosa voglio dire? No, e no. Allora c'è questa frase, scusate, non c'è lotta di classe senza tenerezza, benissimo. La lotta di classe senza tenerezza. Cosa vuol dire non c'è lotta di classe senza tenerezza? Pone il problema, io lì sono molto, molto prossima a Arendt, nel senso che il male abita l'uomo, abita la natura. E attraversa la natura, cioè non c'è... Ma sei leopardiana. Sei leopardiana. Anche. Sono molto vicina a Arendt, che insomma, la cui lezione, per carità. Nel senso che un problema, secondo me, che è della sinistra, è nostro, poi lo pongo come interrogazione, di aver sempre visto che il male stava tutto dalla parte del capitale, non era una questione di attraversamento dell'essere umano, come nelle seguenti declinazioni: razzismo, aggressività, uomo-donna, eccetera, eccetera, eccetera. A mio avviso va riconosciuta una potenza del negativo che è in natura, è nell'umano. Poi Schmitt, piaccia o non piaccia, io lo trovo comunque un autore da leggere, nell'antinomia, amico nemico, ci dice una cosa molto chiara, cioè laddove io devo fronteggiare pongo il limite. Allora lì c'è una grossa questione che a mio avviso la sinistra ha posto problema: il negativo era tutto di là, era tutto dall'altra parte, noi eravamo il buono. Non è vero. Queste dinamiche e dimensioni ci hanno attraversato i movimenti, hanno attraversato le situazioni, hanno attraversato la nostra difficoltà di fare anche comunità, che sono state complicative. E allora assumere questo, a mio avviso, non vuol dire distruggere tutto quel portato, ma interrogarlo su una sfaccettatura dell'esistere che è molto più articolata e comporta anche questo. Perché? Perché oggi che ci troviamo di fronte al grande negativo, noi siamo nel pieno di una negatività per me clamorosa, generazionalmente mai avrei pensato di trovarmi in un tempo come quello attuale, però mi devo dire che queste pulsioni, poi Gattari lo diceva, no? Si può anche desiderare se si è amato il fascismo bene, è un riconoscere che certe pulsioni hanno anche indirizzi che non sono, come dire, singolarmente, soggettivamente condivisibili, ma che abitano, ci abitano, abitano il sociale, e che quindi ci mettono in una qualche difficoltà. La grande difficoltà ecologica che tu ponevi prima, per cui Francesco non può essere inteso come l'antesignano, no, di una ecologia, perché non lo è che questa ecologia è un'ecologia farlocca, è un'ecologia che sta pensando il decor, è un'ecologia che non si interroga sulla domanda fondamentale, che vuol dire rifondazione di un pensiero di rapporto con dentro nella natura, perché poi c'è un'eccità dell'uomo nella natura, no? L'uomo è natura sicuro, io l'ho sempre detto, non ci possono essere dualismi, ma in questo essere natura noi portiamo una specificità, un'eccità, che è quella tecnica. E se uno non fa i conti su questo punto è inutile, noi non rinunceremo mai a tutta una serie di comfort, eccetera, eccetera, eccetera. A scapito di tre quarti dell'umanità? Ma certo, perché anche nei luoghi in cui è a scapito di tre quarti dell'umanità c'è una cupola che se ne giova e l'altra parte patisce, ma tanto è silente ed è ridotta al silenzio. Cioè noi siamo dentro un momento di tale violenza perché pensa alla sacrificabilità di una quota cospicua dell'umanità, dell'ambiente e quant'altro. Quindi tutto il resto sono sole che ci stiamo raccontando, no? Sono pezze d'appoggio, cioè sono interventi minuti su una catastrofe che ha dietro un pensiero che è appunto un pensiero del negativo. C'è il sacrificabile e oggi noi siamo disposti. Prego. Puoi venire qua, ti spiace che così... No, sai che non ti si sente e non ti si registra. Ti ringrazio. Qui il microfono magari è difficile. Te lo bah, sì, anche... Ce la faccio. Allora, interessantissimo. Dunque, la questione di non portare, diciamo, la nostra rivoluzione in una dimensione individuale, cioè mantenerla nel collettivo, la sento. Ma tu hai tirato fuori Donna Haraway e stiamo parlando anche di arte o artigianato, un nostro modo di immergerci. Sì. No, volevo dire Donna Haraway. Io ho detto Donova. Sì. Ah, tu hai parlato di oh, è che io ero completamente con Donna. Cultura, c'è un pezzo della no, ecco, appunto, no, è che io stavo seguendo anche alla fine, sai, anche il discorso che facevi tu combacia benissimo con la mia esperienza che mi viene da porre di fronte a queste questioni. Cioè, io da un punto di vista della creazione e quindi dell'artigianato che è un po' a parte nei discorsi politici che sono stati, politico-culturali che sono stati fatti, ecco, io mi sono vissuto molto da un punto di vista della creatività, io sono tessitore, a tessere l'ambiente, cioè, per esempio, durante l'alluvione che c'è stata l'ultima in Romagna, io l'ho vista attraverso la natura, ero al mare, l'ho vista attraverso il lamone che portava la distruzione, il mare che portava altre cose, l'ho tessuto, ho fatto quindi in un qualche modo mi sono sentito di vivere una situazione che va verso quella di una dimensione più vicina alla natura che noi possiamo avere, riuscire a... No, vabbè. No, dai, continua che ti sta, dai, che così ti seguiamo. Cioè, più vicina come? Come? Sentirla? Seguire il flusso? Dunque, a me sembra che le nostre questioni delle derive, del divenire, ci abbiano portati al livello di comunicazione che abbiamo adesso verso un nulla. Scivoliamo con i nostri pensieri, con le nostre parole. Io mi sono trovato, partendo da tutti gli studiosi o tutti i modi per affrontare il mutamento nella società e nel nostro fare rivoluzione, mi sono trovato a un punto in cui mi sono detto ah beh, ma l'uomo deve veramente andare oltre se stesso. Cioè, il nostro dialogare col mondo, quell'alterità che è molto alterità, cioè il sentire, il metterci in relazione come noi ci mettiamo in relazione con tutte le dinamiche che portano alla conflittualità e che quindi può portare a una forma di rivolta. Ecco, io penso, almeno nella mia esperienza, mi sono sentito più vivo a considerare tutte quelle variabili che arrivano da una natura che io considero quasi come una società estesa. Capito? No, non avete capito. Sì. No, immagino che non abbiate capito. Beh, la mia questione... No, quello che voglio dire è che da un punto di vista del... Eh? No, ma sì. Sì. No, no, ma anzi, scusate che... Ma no, si è capito... Solo che c'è uno specifico, no, del movimento naturale. Infatti, certo. E questo è per quello che io parlavo. Neanche la natura è bene, eh? È tutto bene. No. Non è? Non lo è? No, assolutamente. Se uno, allora, diceva Robert Musil, dico una banalità, se uno entra in un bosco, capisce passo dopo passo che cosa la natura fa, che è un continuo movimento vita contro vita, no? Sopravvazione per vita. Questa è la natura. Non è un movimento plastico armonioso, non è vero. La natura è conflitto. Sì. È conflitto. Sì. È conflitto. Noi abbiamo un'impronta specifica. Noi umani, in quanto esseri tecnici, abbiamo un'impronta particolare. Particolare, particolarmente profonda. Questo è. Cioè, come specie, se noi prendiamo appunto in considerazione tutto il versante appunto dell'antropologia filosofica, questo dice: noi animali carenti siamo animali di impronta determinante, perché ci siamo attrezzati, se no saremmo stati perdenti. Rispetto ad altre specie siamo molto più, no, sprovvisti. Invece siamo di una singolare ferocia, singolare. Un secondo, arrivo subito. Prego, Giorgio, tu. Ma io non ho... Io provo una cosa, ma non sono molto sicuro di quello che dirò. Guarda, vieni qua però, prego. Io capisco perfettamente che noi siamo in questo ambiente, questo tipo di linguaggio, che usiamo, le culture abbiamo frequentato. Ma è anche vero che nel mondo non siamo solo noi, primo, non c'è solo questo linguaggio, secondo, non ci sono solo queste filosofie, terzo. Quindi se parliamo, per descrivere bene i fenomeni che tu hai messo, occorrerebbe anche ogni tanto rivolgersi ad altri mondi che coesistono con noi. E noi siamo bianchi europei e formati a questi linguaggi. Il linguaggio ci ha costruito proprio. Solo questo. E trascuriamo, gli studi trascurano molto questa faccenda. No, sono d'accordissimo. So. No, ma... Ma è un problema. Ma sentite, non so... Io sulla natura... C'è questa formula di Spinoza, natura naturans e natura naturata, che vanno insieme. La natura naturata siamo noi con la tecnica, c'è la natura naturans che appunto è, io dico, la linea d'orizzonte, chiamatela come volete. Bisogna fare i conti con questa dimensione, certo, che è fondamentale, ed è per questo che in questo libro C'è un altro intercessore importantissimo, è Spinoza. Consiglio a tutti veramente di tenerselo vicino sempre, perché l'etica è una cosa straordinaria, politicamente anche, e su questo Tony ha lavorato molto. Io sulla negatività sono profondamente, cioè, come non credo che ci sia un istinto di morte, queste cose qua sono orribili. C'è l'istinto di vita che torna che gira male, ma non c'è istinto di morte. Cioè, il desiderio non manca di niente. Siamo noi che manchiamo di desiderio. Perché siamo dei piccoli io, giustamente. E poi cioè, che la natura sia un ciclo di composizione e distruzione evidente, però allora lì bisogna scegliere da che parte stare, tra la parte della composizione o della distruzione. Ecco, per me è evidente, cioè, è evidente che si sta dalla parte della composizione, e il problema è che non sappiamo comporre. Non sappiamo comporre perché non sappiamo fare il comune, non sappiamo fare il comune, che è il contrario del senso comune. Non sappiamo fare il senso del comune. E per fare il senso del comune ci vuole appunto anche tutto un lavoro, ripeto, una lotta tra sé e sé per uscire dalle nostre tare. Che sono secolari, cioè. A momenti di più, a momenti di meno, no? Queste tane in questo momento sono particolarmente serrate. Sì. Sì, no, dicevo che sono tane in questo momento. Tare. Tare e tane, sì. Particolarmente serrate. Ci sono momenti, ci sono cicli, ci sono situazioni. Questa è una situazione nella quale occorre far mente locale a ciò che ci accade, perché altrimenti io credo non ne veniamo fuori, nel senso che poi le onde storiche non è che uno le sovradetermina, è chiaro. Ma sì, io volevo rispondere anche al compagno, hai talmente ragione, ed è quello che ad esempio si è sperimentato giustamente lavorando con questi rifugiati che vengono da altri mondi, cioè, e costruire un linguaggio comune è durissimo, ma c'è la possibilità, lì per qualche mese in quell'esperienza di Calais c'è stato qualcosa di quel genere, e ha fatto paura. Perché era una città di passaggio che si stava costruendo, un nuovo tipo di rapporto ancora al territorio, ed è stata fermata col fuoco, hanno bruciato tutto. Ma è un po' che mi veniva ad aggiungere come gli spazi di sospensione, no? Che abbiamo in certe realtà urbane. Certo. Per esempio, noi adesso stiamo pubblicando una ricerca inchiesta che mi ha appassionato tantissimo sulle zone che a Parigi si erano costituite tra Chapelle e Stalingrad, sotto le arcate della metropolitana, grandi tendopoli. E per largo tempo quelle zone hanno finito col costituire una rete, una comunità che interagiva in qualche modo con la cittadinanza. Non erano totalmente ghettizzate, erano fratture nel corpo urbano. Tant'è che poi li hanno sgombrati, adesso sono tutti a Port de Clichy fuori, in una specie di enorme baraccopoli che uno dice a Parigi dei Giochi Olimpici. Bene, mentre nasceva la Parigi dei Giochi Olimpici, nasceva una stermina, che era l'esito, questa baraccopoli, di questi sgomberi che erano innervati nella città. Adesso noi a Milano questo lo viviamo meno, perché abbiamo meno una densità e una presenza di questo tipo, no? Però sono zone che attraversano l'Olanda, la Germania, la Francia, che sono diventate, come dire, frontiere, certo, che si mischiano con le frontiere delle nuove povertà. Perché poi in questi luoghi non è vero che ci sono solo i migranti, ci vanno a finire tutti i nuovi marginali, come se fossimo, come dire, nella seconda rivoluzione industriale, no? Gli espulsi, e gli espulsi stanno diventando di nuovo tanti. Gli indesiderabili. Sì, sì, ma in non persone, diceva Alessandro, sì, Dallago, certo, giustamente, certo, aveva coniato, no, questa giusta considerazione. Chi è la non persona? Chi è il migrante di oggi? Colui che non gode dello statuto di alcuna cittadinanza possibile, di alcun diritto. Ma leggevo, insomma, adesso sempre dentro questa inchiesta, di donne che in molte zone urbane dell'Africa subsahariana, dell'Asia, coltivano gli spazi residui dei marciapiedi per nutrire le famiglie, e quel pezzettino di terra costituisce di per sé una possibilità. Ma se ci rendiamo conto, che voglio dire, andiamo a spaccare tutti i marciapiedi e ci facciamo gli orti urbani. Non so come dire, ma poi di reazione mi vengono fuori delle fantasie così, no? Nel senso. No, e poi ad esempio a Parigi, dopo le Olimpiadi, dove sono stati costruiti questi quartieri per gli atleti, eccetera, c'è tutto un parco che adesso è stato chiuso, questo parco, e adesso in questo parco ci sono rifluiti tutti i tossicomani, certo, cioè. Ma poi, e con tutto, Parigi è più violentemente immediata di ma Milano, allora lì è proprio il contrario, no? La ghettizzazione che finisce per, è il contrario di quello che succede in questi spazi virtuali che però hanno, certo, avuto una certa attualità, che non sono stati solo virtuali nella testa degli intellettuali, no? c'è stata quando parlo di reciprocità tra migranti e migranti, che parola, tra esuli, noi stessi siamo diventati un po' più esuli, anche se poi dopo siamo tutti dei garantiti, per cui siamo dei privilegiati. Allora bisogna partire da un contesto, abbiamo ancora molto da perdere, e questo è il punto di da perdere, sì, tutto da se non ci diciamo questa banale verità, a mio avviso non capiamo il perché c'è un ventre molle, no? Nel senso, c'è una coscienza morale, c'è una condizione materiale, e in questo si consuma uno iato che per molti è stato già consumato. Va bene, Giorgio, grazie a tutti, eh? Grande piacere, grazie.